tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate. Buongiorno a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando sulle libere frequenze di Radio Blackout di Torino, ma salutiamo anche tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando sulle radio gemellate nello spazio del Ponte Radio. Ricordiamo che sono Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Neanderthal, Radio Spore e noi qui da Torino Radio Blackout. Quest'oggi andremo a fare una puntata speciale sui temi del lavoro. E con un focus in particolare su quello che succede appunto qui dalle nostre parti, Torino e Piemonte. Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti in questa trasmissione di approfondimento sulle tematiche del lavoro. E oggi andremo a toccare vari aspetti, soprattutto la volontà è quella di iniziare proprio dall'inizio, insomma, il CCNL, il contratto collettivo nazionale del lavoro. Da dove viene? Da dove è nato? Da dove nella nostra storia, come ha condizionato la lotta di classe? Insomma, questo è un po' il principio che legherà l'approfondimento, come accennava Andrea poc'anzi, sulle due temoni che abbiamo scelto, che adesso andremo ad introdurre in maniera sintetica. Ma quando si parla di contratto collettivo nazionale del lavoro, di CCNL, bisogna risalire al 1941, ahimè, al ventennio fascista, un po', insomma, l'aria che si respira adesso, insomma, non è molto diversa, ma al di là delle battute scontate, nel 1941 la Carta del Lavoro, che era nata nel 1930 con la legge 100, nel 1921, scusate, con la legge 100, un regio decreto, viene trasformata in decreto attuativo, diventa legge di fatto, in cui viene concepita la contrattazione collettiva nazionale come istituto, uno strumento di superamento della lotta di classe. Vorrei leggervi l'articolo 4, che insomma riassume, insomma, il perno, come qualche altra trasmissione qui in Radio Blackout diceva, della questione. È proprio questo: la lotta di classe è stata attaccata sin dagli esordi, che viene ancora prima della legge 300, a cui magari poi entreremo. Quindi l'articolo 4: nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione mediante la conciliazione degli apposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, a loro subordinazione agli interessi superiori della produzione. Quindi prima la produzione, poi la calmierazione dei vari interessi e poi la sudditanza e il superamento della lotta di classe. Quindi volevamo un po' sgomberare il campo delle questioni contrattuali, perché non abbiamo mai visto di gran gusto, diciamo, di buon occhio la contrattazione collettiva nazionale, Per vari motivi che adesso entreremo nel merito nell'intro, ma questo è il suo perno nascente, quindi nasce proprio in maniera sbagliata, nasce dal superamento della lotta di classe, e qui insomma l'unica possibilità secondo noi di emanciparci dal punto di vista del lavoro e organizzativo è attraverso la coscienza di classe e la sua lotta. Beh, a fare un po' ping pong dalla storia, quindi passiamo dal 1941 a direttamente 2025, dove ci sono 1019 contratti collettivi nazionali. Cioè, insomma, non esiste solo il commercio, non esiste solo quelle cooperative, non esiste solo il metalmeccanico, giusto per citare i più VIP, i più famosi, quelli in cui citiamo sempre anche nelle nostre trasmissioni, che sentiamo più facilmente, oppure che ci coinvolgono personalmente, o funzione pubblica, che ne so, Ferrovie dello Stato, metalmeccanici, eccetera, eccetera, ma ne esistono 119. E il datore di lavoro è libero di applicarne qualsiasi voglia in suo, insomma, a suo piacimento. Questo è l'altro punto debole, molto delicato, anche perché solo con la lotta di classe, cui la contrattazione collettiva nazionale ha calmierato dal 1921-41, questa roba qua. Poi negli anni, vado velocemente perché sennò mi dilungo in un'introduzione che, insomma, lascia il tempo che trova. Tra gli anni 70 e 80, senza stare a citare le lotte di classe clamorose che hanno ottenuto protagonista soprattutto la nostra città, eccetera eccetera, la contrattazione collettiva nazionale si è concretizzata legislamente parlando in un rapporto trilaterale. Al tavolo ci sono sindacati, datori di lavoro e Stato. Il sindacato quindi all'angolo davanti a due padroni, uno è lo Stato e uno è il datore di lavoro, anche perché lo Stato doveva essere la super partes nell'idea ideale della legislazione, ma lo Stato sappiamo da che parte sta. Quindi avendo relegato dagli anni 70, gli anni d'oro, insomma, in cui ci ricordiamo anche con emozione noi compagni le lotte di classe, hanno questi rapporti trilaterali. E, insomma, hanno schiacciato il sindacato nell'angolo. Vado velocemente fino ad arrivare all'attuale. Si possono in quel periodo lì la legislazione ha praticamente coniato la consultazione obbligatoria ma non vincolante, quindi la contrattazione collettiva nazionale si sa da fare, ci vediamo, ma possiamo anche non concludere niente e rimandare a un futuro. Insomma, tutti i contratti che sentiamo parlare, che ci appartengono o meno, hanno questo gap, il rinnovo che non si fa, il rinnovo eccetera eccetera. Chiudo dicendo che chi firma, insomma, questo è ormai conosciuto da più di 10 anni, chi firma è il protagonista assoluto, quindi chi firma un contratto collettivo nazionale, in genere CGIL e CISL e UIL sono i massimi protagonisti, adesso un po' solo la CISL, ne parleremo anche nello specifico, è protagonista assoluto, può entrare nel merito, può mettere becco, può andare a ribasso, a rialzo, perché il contratto collettivo nazionale, vi ricordo che quando ci si siede si può migliorare la condizione dei lavoratori come la si può peggiorare, e ultimamente abbiamo solo peggiorato, quindi non devo aggiungere altro, le condizioni contrattuali. La contrattazione di sito, la contrattazione all'interno della fabbrica può migliorare o peggiorare. Questa delega l'andremo a analizzare nello specifico, facendo il distinguo in questa puntata speciale nazionale con le radio che ci stanno ospitando, che stanno ospitando Radio Blackout, sul manifatturiero dell'auto, quindi diciamo Stellantis, che è la protagonista del nostro territorio, che è passata dal contratto collettivo nazionale metalmeccanico a CCLS, e poi i contratti legati all'universo dei servizi sociosanitari assistenziali, che sono passati, vado molto veloce, da essere praticamente dipendenti pubblici o in quella sfera lì, a essere quindi dipendenti dei comuni, delle ASL, delle scuole eccetera eccetera, a essere schiavi delle cooperative. Eh sì, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte coloro che ci stanno ascoltando. Prendo un po' la palla al balzo di Benny su queste prime informazioni del programma. Sulla puntata speciale di oggi, Benny giustamente introduceva il nostro concentrarci sulla vicenda Stellantis, sulla vicenda del settore automobilistico, di produzione automobilistica qua a Torino, grande protagonista ormai in netto declino della nostra città, tema molto caldo il rinnovo contrattuale di questi ultimi giorni per quanto riguarda i lavoratori metalmeccanici, non solo di Stellantis ma anche di altre aziende dell'automotive torinese, dell'ex Gotha dell'automotive torinese, CNHI, Ferrari, Iveco e Stellantis, che mantengono, diciamo, dei piccoli siti produttivi a Torino ma hanno anche altre fabbriche in Italia. Infatti proprio oggi dovrebbe esserci l'atto finale di 2-3 lunghi mesi di lotta da parte dei lavoratori metalmeccanici di queste aziende per giungere al rinnovo di quello che diceva bene prima, del contratto collettivo speciale di lavoro a Stellantis, accordo che dovrebbe essere firmato in giornata. Proprio adesso mentre ci preparavamo la puntata vediamo la UIL emettere un comunicato che dice che il CCSL è stato rinnovato proprio oggi. Noi ci andremo a mettere in contatto tra poco, dopo un'altra piccola introduzione di carattere storico sulle lotte operaie di Mirafiori, della Stellantis, ex FCA, ex Fiat, tra gli anni 70, gli anni 80 e i primi 2000, con Gianni Mannori, che è responsabile della FIOM, della Federazione Italiana Operai Metalmeccanici di Torino Sud, quindi anche responsabile delle contrattazioni di Stellantis, che mentre l'avevamo sentito per preparare questa puntata ci aggiornava sul fatto che proprio oggi alle 2 dovrebbe esserci la contrattazione definitiva con l'eventuale firma dell'accordo dopo appunto mesi e mesi di mobilitazione. E dopo questa bella introduzione ricca di contenuti andiamo a fare una prima pausa musicale con un brano di Piero Ciampi intitolato Andare, Camminare, Lavorare. Buon ascolto su Blackout e su tutte le altre radio in onda su Ponte Radio. Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite, niente paura, di qua c'è la discesa, andare, camminare, lavorare, rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Cos'è questo fuoco? E mi ero dimenticato di annunciare che dopo, a seguire delle pause musicali, ci saranno anche degli speciali sketch ideati da cioè le storie, redazione, produzione Nessun Rimborso, che sono sempre a tema lavoro, degli fantastici sketchini comici ma anche non. Quindi dopo questo brano ne partirà subito uno molto spassoso sull'arrivismo. Restate incollati, incollati. Il passato nel cassetto chiusa a chiave. Nutriamo il lavoro, ale! Gli agnelli a pascolare con le capre, fra i nitriti dei cavalli, questi rumorosi, vigilati tu, da truppe di pastori, andare, camminare, lavorare, niente paura, azzurri, azzurri, attaccare, attaccare, attaccatevi a calci nel sedere, calciare. La domenica tutti sul bordoio a pedalare, lavorare, pedalare, lavorare, con i contanti dell'osteria, con i contanti, con tanti, tanti, tanti, tanti auguri agli sposi. Andare, camminare, lavorare. La penisola in automobile, tutti in automobile al matrimonio, ale, la penisola al volante. Questa bella penisola è diventata un volante, andare, camminare, lavorare. Gustavo La Quaglia ha un grande obiettivo: riuscire a scalare la piramide sociale. Per prima cosa deve trovare un lavoro, cerca domanda, chiede e piange tanto dei rifiuti che riceve da rimanere ciecato. Handicap non trascurabile, ma gli permette di essere assunto a condizioni inguardabili. Per correre dietro agli incessanti ritmi lavorativi, Gustavo La Quaglia in un incidente perde la gamba, grave menomazione che non gli impedisce di saltare a caposquadra. Gustavo è un caposquadra zoppo, ciecato e intransigente, dirige il personale come un maestro d'orchestra, ma a furia di impartire ordine e indicare le mansioni agli operai, un braccio gli si stacca. Dai vertici apprezzano l'impegno e con la mano buona gli fanno firmare il contratto da caporeparto. Da caporeparto Gustavo La Quaglia comincia ad essere ambizioso, sgambetta colleghi, scalcia i sottoposti, si inchina ai superiori, ma tanta ginnastica finisce per fargli cedere anche l'altra gamba. L'azienda riconosce che l'unico posto per quel busto così motivato è al tavolo dell'amministrazione. Le fatiche e le sfighe non terminano neppure al tavolo decisionale. La Quaglia ci tiene a far valere la sua opinione a ogni vertenza aziendale. Firma licenziamenti, solleva bilanci, approva le mozioni alzando l'unico arto rimasto. Ma le innumerevoli alzate di mano gli costano la perdita del secondo braccio. Gustavo La Quaglia è ridotto a un capo appoggiato al busto, ma è riuscito a coronare il suo sogno di sedersi al vertice dell'azienda, finalmente presidente. Ben presto però si accorge che in questa posizione ha un culo sulla sedia e uno sulla faccia. Tutti lo odiano, sottoposti invidiosi e operai imbufaliti, una moltitudine di nemici che non chiede altro che staccargli la testa dal collo. Dopo questo intermezzo musicale, questo simpatico sputtino che ci ricorda di ascoltare i radiodrammi, sempre una grande specialità di Radio Blackout, andiamo rapidissimamente, perché siamo già un po' in ritardo sulla tabella di marcia, a concentrarci su il primo degli approfondimenti che abbiamo pensato per oggi in questa puntata di Ponte Radio. Lo dicevamo poco prima in introduzione, dopo le parole che ci descrivevano un pochino la situazione della contrattazione collettiva dei lavoratori in questo paese. Oggi si dovrebbe arrivare al rinnovo del CCSL di Stellantis, Iveco, CNHI e Ferrari, gota di quello che è rimasto del mondo dell'automobile, della produzione dell'automotive in Italia. Particolarmente interessante ci sembra, anche alla luce della diretta che tra poco vi proporremo, la situazione che si è venuta a creare a Stellantis, ex FCA, ex Fiat. Storia lunga che insomma molti di noi avranno studiato, forse molti di noi si ricordano, quella della lotta per il rinnovo contrattuale alla Fiat. Facciamo solo un brevissimo cappellino storico. Ha firmato un accordo nel 1970, accordo storico perché riduceva l'orario settimanale di lavoro progressivamente a 40 ore, fortissimi aumenti contributivi, era la stagione delle durissime lotte operaie, si apriva la stagione dei picchetti di fabbrica, dei picchetti davanti ai cancelli, dell'unità sindacale, la famosa federazione dei lavoratori metalmeccanici che stava in trincea, è stata in trincea per un decennio contro gli Agnelli. Nel 1973 nuovo rinnovo contrattuale di fronte a un padronato che aveva ben capito la lezione del 1970 e si era a sua volta organizzato in quella che sarà la Federmeccanica, ma comunque un contratto nettamente migliorativo. All'epoca la Fiat aveva tra i 50.000 e i 60.000 dipendenti solo a Torino, insomma solo il sito produttivo di Mirafiori, senza contare l'indotto che dava da campare a centinaia di migliaia di persone. Negli ultimi mesi del 1977, ancora una volta un rinnovo in cui si fanno già più pressanti le richieste della controparte padronale. La Federmeccanica chiede ai lavoratori di effettuare 6 sabati di straordinario all'anno a circa 3.800 lavoratori, accampando da un lato la crisi della produzione e la necessità di lanciarci sui nuovi mercati, tutti i mantra che avranno poi progressivamente condotto alla dismissione della Fiat. E le ultime dure lotte del 1979, dopo 2 anni di violentissima contrattazione su tutti i livelli in fabbrica tra comitati di lavoro dei lavoratori autonomi e un sindacato di metalmeccanici particolarmente agguerrita, ricordava bene giustamente prima Benny il rinnovo dei contratti nazionali. Si dovette arrivare alla mediazione suppostamente disinteressata, chiaramente a favore della padronale, da parte del Ministero del Lavoro. Oltre 140 ore di scioperi alla Fiat, estremamente serrata, e significativamente il Ministero del Lavoro che pone la parola fine alla contrattazione, minacciando l'intervento poliziesco contro i blocchi stradali come forma di lotta, e quindi forzò in questa maniera la conclusione della vertenza. Il dramma si apre poi negli anni Ottanta, insomma, con una rapidissima carrellata. Ci ricorderemo il famoso licenziamento prima delle 61 avanguardie di lotta della Fiat, poi successivamente l'esubero della padronale che passò radicalmente all'offensiva, proponendo la cassa integrazione, prima l'esubero e poi la cassa integrazione per oltre 15.000 operai, sconfitta sindacale epocale che, insomma, secondo tanti e tante segnò il punto di implosione sia della contrattazione collettiva che della forza di contrattazione sindacale. E da allora una storia di graduale dismissione completa sia della fabbrica, delle sue capacità produttive e anche dei suoi lavoratori, che oggi ammontano a più o meno 12.000. Ricordiamo appunto che 40 anni fa si trattava di 60.000 lavoratori solo nel sito, senza contare l'indotto. Ma questo ce lo faremo raccontare tra poco da Gianni Mannori, responsabile della FIOM di Torino Sud, zona Mirafiori, e quindi anche di Stellantis. Vi lasciamo con un piccolo errore di regia, ma vi lasciamo all'intenzione giustissima, vi lasciamo con un piccolo intermezzo musicale mentre ci andiamo a mettere in collegamento con Gianni. Sì. Li conosco quei discorsi, li fatti anch'io. È una vita che parlate di operai, belli con le mani grosse, i pugni chiusi, forti con le braccia sporche, il petto in fuori, nudi, sudati, coraggiosi, che si muovono gloriosi, gli operai. È una vita che fate la retorica sugli operai, gli operai. Spalle larghe, i visi aperti, forti con i loro sguardi fieri e sani, veri, autentici, onesti, come si vedono sempre sui vostri manifesti. Ma basta con questi discorsi, basta. Gli operai sono gente come noi, e non è vero che hanno l'esclusiva dello sfruttamento. Gli operai sono anche peggio di noi, perché non ne hanno coscienza, non se ne rendono conto e non sanno mai niente, e fanno discorsi grossolani che non si possono sentire. 13:27, bentornati e bentornate su questa puntata di Ponte Radio, oggi a cura della redazione di Radio Blackout, frittura mista, Radio Fabbrica e un pezzo della redazione informativa. Vi propongo una puntata tutta a tema lavoro, come vi avevamo annunciato all'inizio nella nostra introduzione. Oggi è una giornata particolarmente sentita in zona sud Torino Mirafiori, perché si dovrebbe arrivare alla firma definitiva dopo mesi e mesi di lotta da parte dei sindacati, dei metalmeccanici e dei lavoratori, alla firma definitiva del contratto collettivo speciale del lavoro Stellantis e varie altre aziende. Noi dovremmo avere con noi al telefono Gianni Mannori, responsabile della FIOM Mirafiori e zona sud di Torino. Pronto Gianni, ci senti? Pronto, ciao, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Allora, qui in diretta su Radio Blackout, ma anche su Radio Onda Rossa, Radio Neanderthal e varie altre radio italiane, noi innanzitutto ti vorremmo chiedere, insomma, brevemente, io avevo fatto un po' di introduzione ricordando da un lato la storia della contrattazione nazionale alla Fiat, quindi gli anni 60 e 70, e poi la progressiva dismissione della fabbrica, della sua capacità produttiva e allo stesso tempo del potere di lotta e di contrattazione dei lavoratori a partire dagli anni 80. Ho qui davanti un triste articolo del Corriere di Torino che ci dice, è di gennaio, dice: Stellantis, anno nero di Mirafiori, lo stabilimento di Torino peggiore d'Italia, assemblate solo 25.000 auto. E quindi ti volevo chiedere, insomma, in apertura un po' una panoramica a volo d'aquila su come sta messa oggi la produzione e la situazione a Mirafiori e come stanno messi i lavoratori e lavoratrici dello stabilimento Stellantis. Ma guarda, ai noi stiamo qui più a contare i giorni di cassa integrazione che i giorni di lavoro, quindi c'è soltanto più la produzione della 500 elettrica, che sappiamo che non ha più un grosso appeal sul mercato, quindi non ne vengono vendute sostanzialmente, quindi ne vengono prodotte pochissimo. La Maserati ancor meno, si produce col contagocce, parliamo di pochissime unità al giorno e non viene prodotta tutti i giorni, motivo per cui rischia di chiudere definitivamente la Liar, ancor di più dopo la notizia che tutta la produzione, quello che è rimasto della produzione di Maserati, verrà spostato a Modena, e quindi ha decretato definitivamente la chiusura e quindi il fallimento di quello che fu celebrato come il polo del lusso, quindi da produrre a Torino. L'unica cosa a cui siamo appesi in questo momento è la 500 ibrida, che l'anno scorso siamo riusciti, attraverso la mobilitazione del 12 aprile, a portare proprio qui a Torino. Quindi abbiamo fatto un percorso in cui ci siamo messi in testa di riuscire a portare insieme anche le altre organizzazioni sindacali, che per anni ci ha visto, da quando è stato firmato il CCSL, su posizioni completamente diverse, separate, quindi non abbiamo fatto più un percorso comune, che invece abbiamo ristabilito proprio per provare a riportare a Torino almeno un barlume di speranza. Dico un barlume di speranza perché chiaramente la 500 ibrida non è un prodotto nuovo, è semplicemente un prodotto che in Polonia non viene fatto più e che era destinato alle fabbriche dell'Algeria, sempre di Stellantis. Siamo riusciti quindi a portarlo, e questo ci dà la possibilità, perlomeno nei prossimi due anni, ma a partire dalla fine di quest'anno, ad avere magari delle produzioni maggiori rispetto alla 500 elettrica, e questo magari consentire che i lavoratori che sono oggi ancora alle dipendenze di Stellantis possano vedere un futuro lavorativo anziché di cassa integrazione. Però è chiaro, e ce lo dobbiamo dire, lo abbiamo detto sempre in tutti i passaggi mediatici e non nelle assemblee con i lavoratori e quant'altro, che non è sufficiente la 500 ibrida. Per fare un modello, per metterlo in produzione ci vogliono almeno un paio d'anni, quindi è necessario che oggi Stellantis ci dica quale altro modello verrà assegnato. Chiaramente parliamo di modelli che fanno numeri. Vi faccio un esempio. Oggi, o meglio, il 24 di giugno verrà celebrata la Grande Panda prodotta in Serbia. Si prevedono di fare circa 300.000 vetture all'anno. Ecco, ci sarebbe servita come il pane una vettura di questo tipo. Se volevamo avere prospettive, se questa azienda attraverso l'assegnazione di nuovi modelli avesse dato questi modelli a Mirafiori, allora con questo ci avrebbe dato l'idea che effettivamente puntava ancora su Mirafiori, su Torino, sul Piemonte e sull'Italia. Così non è stato, verrà a celebrare semplicemente un lancio pubblicitario che di fatto non avrà ricadute sul nostro territorio. Quindi è chiaro che noi oggi siamo nella condizione, esattamente come ieri, di urlare a questa azienda che è necessario portare qui produzioni, e tra l'altro produzioni che possano consentirsi di acquistare gli stessi operai che le producono. Detto che oggi non potrebbero permettersi alcunché, già che la loro vita da cassi integrati non gli permette neanche di arrivare a fine mese, quindi di questo stiamo parlando, di famiglie che non si possono permettere di far curare i propri figli, di farli studiare, quindi stiamo parlando di una situazione drammatica. Potremmo veramente fare una trasmissione solo sull'impatto che ha questo genere di deindustrializzazione sugli operai, non solo quelli che perdono il posto di lavoro, ma anche quelli che sono in cassa integrazione perenni. Certo, allora grazie Gianni per questa panoramica, insomma, abbastanza desolante sulla situazione in questo momento di Stellantis. Io ti chiederei, insomma, che valore assume di fronte a questa situazione qui la contrattazione specifica sul contratto da applicare in Stellantis. Sappiamo che, insomma, da quello che abbiamo letto, parliamo di un aumento della paga base, insomma, di svariate altre tentativi, diciamo, di contrattazione che dovrebbero andare a poi fondamentalmente migliorare anche la situazione materiale dei pochi e delle poche operaie che ancora stanno a Stellantis. Facci un po' uno storico degli ultimi mesi di mobilitazione, di come si è arrivati questa contrattazione, di che cosa andrete poi a discutere e insomma, non so, probabilmente, ma dicelo tu, a firmare oggi, perché sappiamo, insomma, che voi avete oggi un incontro alle 2:30 con la padronale, con le aziende, per andare proprio a limare e firmare il CCSL. Allora, intanto non firmeremo comunque il CCSL, siamo nella condizione oggi di andare a discutere, quindi probabilmente a provare a chiudere una parte economica del CCSL, non a sposarne la parte normativa. Lo dico perché questo ci ha consentito ancora oggi effettivamente di parlare di un incontro che abbiamo oggi, ma solo come FIOM, perché le altre organizzazioni hanno sostanzialmente già firmato in mattinata il rinnovo del biennio economico. Se ti devo dire da un punto di vista tecnico, è chiaro che questo accordo noi saremmo nelle condizioni di firmarlo, nel senso che lo giudichiamo comunque positivamente per gli aumenti che vengono concessi per quello che riguarda appunto l'attribuzione sui minimi. A questo ci siamo arrivati dopo cosa? Quindi non è che facciamo la gara perché oggi vogliamo andare a firmare, ma semplicemente, voglio spiegarlo, abbiamo fatto gli stessi incontri che hanno fatto gli altri su due tavoli separati, quindi firmatari da una parte e noi dall'altra, quindi ci sono stati tre incontri, ma soprattutto, che è quello che conta secondo noi in una contrattazione vera con le aziende, qui parliamo di aziende come Stellantis, Iveco, CNH e Ferrari, è stata la mobilitazione che abbiamo messo in campo solo ed esclusivamente noi come Fion in tutti gli stabilimenti italiani, sia quelli in cassa integrazione sia quelli che lavorano, quindi sia di Iveco che di Stellantis, alcuni reparti che lavorano, alcuni stabilimenti che lavorano come Pomigliano, alcuni reparti di Mirafiori come i cambi ibridi piuttosto che l'economia circolare o le meccaniche. Però parliamo di mobilitazione che ancora ieri al tavolo ci è stata riconosciuta come uno degli elementi per cui l'azienda ha voluto arrivare a questa cifra di aumenti, ma soprattutto a chiuderla in queste ore. Quindi è chiaro che per quello che ci riguarda sappiamo che questo risultato raggiunto è stato raggiunto anche e soprattutto per la mobilitazione che è stata messa in campo. È chiaro che oggi noi andiamo a determinare che cosa, perché quindi potrebbe esserci una non firma da parte nostra. Assai probabile, perché chiaramente chiediamo di firmare semplicemente il rinnovo economico. Rinnovo economico che non dovrebbe riguardare, per quello che ci compete, la parte normativa, che è quella che non ci ha consentito di firmare il CCSL dalla sua origine fino ad oggi, ovvero quella che priva i delegati, le organizzazioni sindacali e i lavoratori di un'agibilità sindacale, non li lascia liberi neanche di fare quelle mobilitazioni che invece siamo riusciti a mettere in campo noi, proprio perché abbiamo le mani libere non avendo firmato il CCSL in questi mesi. Dico un altro elemento. Abbiamo detto positivo, sì, il giudizio è positivo, quindi sull'aumento che è stato raggiunto, virgola per quelli che rimangono. E soprattutto per quelli che rimangono, che possono avere la fortuna di lavorare, perché ricordiamoci che il vero problema oggi non sarà solo il salario di quelli che lavorano, per cui beneficeranno di questo aumento, ma sarà anche e soprattutto il fatto di poterlo vedere questo aumento, ovvero che non siano in cassa integrazione, e soprattutto in prospettiva, visto che ancora in tutta Italia negli stabilimenti, e arriveranno i Mirafiori probabilmente la prossima settimana, ci saranno ancora delle uscite incentivate, ovvero un'azienda che anziché portare modelli, gli unici investimenti fatti, che sono i più cospicui degli ultimi 30 anni, li ha fatti proprio per metterli a disposizione di quei lavoratori che l'azienda la volevano abbandonare e quindi non a rientrarci per produrre. Non so se sono stato abbastanza chiaro, chiedo scusa se non lo sono stato, ma ditemi se c'è da specificare magari qualche elemento su cui non lo sono stato. Gianni, sei stato abbastanza chiaro. Ciao, sono Benny, sono qui in radio con Nicolò per approfondire questo aspetto qui. E con te vorrei fare dei passi indietro, però, proprio perché nello spirito introduttivo di questa trasmissione, che è trasmessa in diretta a livello nazionale, come ti ricordava Nicolò, abbiamo deciso un po' di entrare anche nel merito politico sindacale della questione del contratto collettivo nazionale legato al manifatturiero, che è passato da essere dei metalmeccanici a essere CCLS, e un po' questo ha frenato, insomma, la capacità storica ed esplosiva di essere riferimento della lotta di classe a livello nazionale, non solo della fabbrica più grande, che l'ex fabbrica più grande d'Italia, che insomma sede qui a Torino. Un po', insomma, come si è vissuto questo all'interno e come gli strascichi di questa divisione, di questo spezzatino da parte padronale, ha influenzato e ha ridotto, insomma, a questi livelli la contrattazione collettiva nazionale. Ma allora, di fatto il fatto di essere usciti dalla contrattazione collettiva nazionale, di aver frantumato sostanzialmente l'unità interna dei lavoratori attraverso le organizzazioni sindacali, ha fatto che dare un colpo durissimo a tutta la contrattazione. Basti ricordare che praticamente tutti, e ricordo tutti, i rinnovi contrattuali passavano proprio attraverso la mobilitazione che si era in grado di esprimere all'interno di Fiat, all'interno di Mirafiori in principal modo, ma non solo Mirafiori, quindi parliamo comunque della fabbrica privata più grande d'Italia. Quindi questo sicuramente ha indebolito il fronte sindacale che oggi ci vede impegnati anche al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici. Quindi una frantumazione che è partita da dentro Fiat, che oggi si chiama Stellantis, e che invece, togliendo un pezzo importante della lotta messa al servizio di tutti i metalmeccanici italiani, ha privato anche i metalmeccanici italiani della possibilità di arrivare a chiudere un contratto collettivo nazionale di tutto rispetto attraverso proprio le lotte che gli operai di Fiat stessa potevano mettere in campo. Quindi questi due diversi aspetti sono da considerare chiaramente separatamente, ma portano poi a un risultato comune, ovvero che entrambi i contratti da un punto di vista economico sono contratti in qualche modo privati di una sostanziale rilevanza che nel tempo si è pagata avendo proprio degli aumenti non congrui per quello che doveva essere invece il potere d'acquisto dei lavoratori metalmeccanici. Negli ultimi anni abbiamo avuto la possibilità, quindi ricrescendo sia all'interno del gruppo Fiat come forza sindacale, che ovviamente bisogna ricordarlo, non c'è soltanto una frantumazione della divisione, quanto anche la volontà di annientamento di quello che era un modello sindacale, quello espresso dalla FIOM, quindi al conflitto, l'unione dei lavoratori, quindi attraverso il consenso dei lavoratori si è cercato di annientare quel modello che pian piano, leccandoci le ferite negli anni, abbiamo riconquistato fino ad arrivare a determinare di nuovo un innalzamento dell'asticella che ha fatto cambiare all'azienda idea diverse volte, compresa l'assegnazione del modello a Mirafiori. E anche esternamente ci si è riusciti in qualche modo a riorganizzare, anche se privati, di questa importante azienda privata attraverso l'unione di aziende medio-grandi e statali o parastatali, in cui siamo riusciti, determinando la nostra forza specifica, a condurre quelle che sono state gli ultimi rinnovi, almeno parliamo dell'ultimo rinnovo in principal modo, ma anche quello precedente, che ci hanno consentito di avere aumenti di un certo tipo e di tutto rilievo, che in qualche modo hanno recuperato anche quello che è stato l'innalzamento dell'inflazione. È chiaro che però la nostra volontà sarebbe quella di, e lo diciamo tutte le volte ai tavoli, che le aziende che hanno fatto il contratto specifico di lavoro, quindi Iveco, Stellantis, CNH e Ferrari, ritornassero all'interno dell'albero del contratto collettivo nazionale. Oggi probabilmente non c'è tutta questa volontà, perché avere un contratto che gli consente sostanzialmente di poter fare quello che vogliono con le altre organizzazioni, verrebbe da domandarsi perché queste aziende dovrebbero cederlo magari a cuor leggero. Noi stiamo facendo in modo che lo possano fare attraverso quello che gli mettiamo noi come bastoni fra le ruote, provando a organizzarci sempre più prepotentemente con i lavoratori, quindi essendo effettivamente con il conflitto il motivo per cui questa azienda dovrebbe magari ripensare al contratto specifico che oggi applica. Grazie Gianni, sei stato molto chiaro. Io volevo chiederti un po' in chiusura quali saranno, al di là dell'incontro di oggi, i prossimi eventuali passi di mobilitazione di cui parlavi, se ci saranno degli appuntamenti, insomma delle cose a cui gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout, ma anche delle altre radio italiane su cui sta andando in onda questa intervista, possano, diciamo, drizzare le orecchie e far pervenire, insomma, attenzione e solidarietà. Allora, sicuramente con Stellantis, quando dico battere il ferro finché è caldo, dobbiamo immaginarci una serie di iniziative che portino a riaccendere i riflettori sulla necessità di avere altri modelli assegnati nel nostro paese, a partire proprio da Mirafiori. Quindi oggi non abbiamo stabilito delle date, ma stiamo parlando con le altre organizzazioni per provare ad avere un percorso comune, ma sicuramente la necessità è quello di arrivare a delle azioni che nei prossimi giorni, settimane o mesi portino comunque a rialzare l'asticella su questa attenzione e su questa necessità. Per quello che riguarda invece i metalmeccanici, il prossimo appuntamento è quello del 20 di giugno, ovvero quello in cui i metalmeccanici italiani scenderanno in piazza per l'ennesima volta, quindi per raggiungere le 40 ore di sciopero da quando è iniziata la vertenza sul rinnovo del contratto, per il rinnovo proprio del contratto collettivo nazionale di tutti i metalmeccanici. Faremo uno sciopero regionale, lo si farà in tutte le regioni d'Italia, in Piemonte lo faremo a Torino, però anche da quel punto di vista dobbiamo immaginarci, oltre a questa data che racchiude un po' tutti gli scioperi nazionali, dobbiamo anche immaginarci di alzare l'asticella, magari diversificando anche le forme di lotta, perché noi a quel contratto ci vogliamo arrivare, perché riteniamo che sia assolutamente doveroso arrivarci. Va bene, grazie Gianni, noi ci terremo sicuramente in contatto con te e con lavoratori e lavoratrici di Mirafiori e dell'automotive in generale, che spesso sentiamo a questi microfoni. Grazie dell'approfondimento, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura. Compagni, pronti alla lotta, e soprattutto spendiamoci perché la lotta riesca, soprattutto all'interno dei luoghi di lavoro. Organizziamoci, prepariamoci, questo secondo me è il nostro dovere per quello che riguarda tutte le lotte che ci competono, e non vorrei escludere anche quella della scelta magari di questo governo o di altri futuri di dedicare magari dei soldi al riarmo e non ai beni comuni come la sanità, come l'istruzione e quant'altro. Quindi io credo che sia questo, in chiusura, quello che mi sento di dire a tutti. Siamo compagni in Italia, ecco. Giustissimo. Tra l'altro, insomma, ricordavi un tema che noi qui abbiamo toccato abbastanza spesso dai microfoni di Radio Blackout, che oggi non abbiamo approfondito per concentrarci appunto su la questione dei contratti, del lavoro e della contrattazione sindacale, ma che è diciamo il progressivo spostamento del potere produttivo e dei finanziamenti statali da quello che è stato, si può dire, l'automotive in Italia verso il nuovo settore che fa gola a tanti, quindi riarmo, armamenti e così chiamata difesa. Noi su questo ricordiamo un evento, una chiacchierata, un dibattito che ci sarà a Torino giovedì 13 giugno, giovedì della prossima settimana, in cui interverranno anche compagni e compagne, lavoratori e lavoratrici delle varie fabbriche torinesi e anche di Stellantis, insieme a Massimo Alberti, che è un compagno di Radio Popolare di Milano, che sta lavorando negli ultimi mesi a delle inchieste. L'evento si chiamerà Torino cambia lavoro e si terrà il 12 giugno, non venerdì bensì giovedì, alle 6 a Palazzo Nuovo. Gianni, noi ti ringraziamo e ti auguriamo. Grazie mille a voi. E ti auguriamo una buona giornata. Ciao. Grazie mille altrettanto. Ciao. Ciao. E non si fidano della cultura. Gli operai hanno ancora il complesso della borghesia, dei suoi valori scontati che loro vogliono imitare con sforzi meschini che non si possono più vedere. Gli operai sono solo più oppressi e più sfruttati di noi, hanno altri problemi e non sono invischiati in oggetti che noi custodiamo con cura. Gli operai hanno addosso soltanto una rabbia che cresce, una rabbia che si estende, da sbattere addosso ai padroni che la polizia difende. Gli operai hanno ancora una forza per non farsi fregare dalla gente per bene, che con tante parole, con tante promesse li frena, li tiene. Gli operai. Gli operai hanno addosso una forza la storia del centravanti populista. Lui, un centravanti che è intervistato dice delle cose tipo la vita è un maremoto, cioè dice delle cose che è una vergogna, ma dice delle cose che è una vergogna, dice delle cose che è una vergogna, è una vergogna, è una vergogna. Oclocrazia, benvenuta in Italia, patria di Pasolini, ma già qua che ristagna. Di fronte a regredire di quello che era civile, ormai basta uno slogan, ruspa e fucile. Io che mi sento straniero se lo dico c'è un insulto. Italiani brava gente sì, ma fino a un certo punto è la brutta poesia con cui sono alle prese, la dicotomia di cui è preda il paese. Va bene tutto ma a un certo punto compare, sai che ti dico fa un po' il cazzo che ti pare, ma non parlarmi di spazio identitario, perché non si occulta la merda sotto ad un dizionario e le bandiere nere sulle gradinate. Nuovi slogan ma vecchie teste rasate, lo stadio è vuoto e la curva è tutta fascista, in campo c'è la stella, il centravanti populista. Birra in frigo, blu vertigo, blu vertigo, salta Vigo, salta Vigo, arrigo, sa chi in campo non mi batti. Fuori dal campo dico sempre ciò che penso, tanti governi ma sembra sempre lo stesso. L'Italia ha solo bisogno di un cambiamento, votate me così divento presidente. Sono un centravanti populista, sono un centravanti populista, dico banalità in ogni singola intervista, perché sono un centravanti populista, sono un centravanti populista, sono un centravanti populista, e piaccio all'operaio e piaccio alla comunista, perché sono un centravanti populista. Io avevo Borghetti in Bugatti, ma i fai più bastardi mi dicono un sogno, tu non sarai mai un centravanti, mi dicono gioco a pallone ma sono ridicolo. Chiamarsi bomber tra amici senza alcun merito sportivo, lo sai così intendo, comanda le banche, lo sappia la gente, l'ha già detto G. Luciani nel disco precedente. Ripetitivo come un goleador, sto con Genose, fumiamo il tuo mondo, ci degli specchi su base di Erma, prendiamo una brutta china, Martini, aperitivi col divo Andreotti, nel purgatorio dei morti, sto lontano dallo stress, basta il pesto, perdo a PES, mico solo con la birra in frigo, blu vertigo, blu vertigo, salta Vigo, salta Vigo, arrigo, sa chi in campo non mi batti. Fuori dal campo dico sempre ciò che penso, bravo, tanti governi ma sembra sempre lo stesso, bravo, l'Italia ha solo bisogno di un cambiamento, bravo, votate me così divento presidente. Sono un centravanti populista, sono un centravanti populista, dico banalità in ogni singola intervista, perché sono un centravanti populista, sono un centravanti populista, sono un centravanti populista, e piaccio all'operaio e piaccio alla comunista, perché sono un centravanti populista, e dico delle cose che è una vergogna, ma dico delle cose che è una vergogna, la domenica sportiva è una vergogna, è una vergogna, è una vergogna, e dico delle cose che è una vergogna, ma dico delle cose che è una vergogna, ma in aria d'amico è una vergogna, è una vergogna, è una vergogna, yeah. Centravanti è ovviamente contrariato. Nessuno lo aveva mai marcato così. Questo funerale a cui state assistendo è l'unico funerale a cui daremo vita quest'anno, il funerale della categoria dei Becchini. Oggi siamo qui per dirvi che le pompe funebri sono a secco, i cimiteri sono spopolati, i vermi languiscono la fame, le carogne... Dove sono le carogne? Carogna, carogna, carogna! Non c'è più lavoro, siamo tutti disoccupati! Se continua così moriremo di fame, e se moriamo noi, chi ci seppellirà? Noi siamo onesti cittadini, ligi lavoratori. Sotterrare è un nostro diritto, morire il vostro dovere. Dovete morire, dobbiamo lavorare. Dovete morire, dobbiamo lavorare. Dovete morire, dobbiamo lavorare. In questo paese non si muore più! Dove sono le stragi del sabato sera? E le morti bianche? Qui i vecchi campano 100 anni! E cosa fanno i medici? Curano! Curano più non posso! La medicina ormai non guarisce! resuscita, è una vergogna! Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna! Noi vogliamo un governo coraggioso, un governo che ci sostenga! Vogliamo le epidemie, gli ospedali al collasso, le stragi di Stato, i massacri nelle carceri! Vogliamo Amadeus a Sanremo! Amadeus, Amadeus, Amadeus! Noi becchini oggi siamo scesi in piazza tutti uniti per chiedere soltanto di poter fare il nostro mestiere! Vogliamo scavare le fosse, erigere tombe, sigillare le bare! Noi becchini da questa piazza lo gridiamo forte e chiaro: no alla vita, sì al lavoro! No alla vita, sì al lavoro! No alla vita, sì al lavoro! No alla vita, sì al lavoro! .50 Radio Blackout, radio che trasmette quest'oggi in esclusiva nazionale con la collaborazione di altre radio, nostre amiche, compagne e complici. Stiamo parlando del lavoro, stiamo parlando del lavoro col filo conduttore dei contratti collettivi nazionali. Abbiamo messo in discussione nell'introduzione proprio l'istituto stesso del contratto collettivo nazionale. Siamo entrati nel particolare dei soli Stellantis, ma voltiamo pagina per tuffarci a bomba nel dopo il manifatturiero, nei contratti che si svolgono, si firmano nei servizi socio-sanitari assistenziali. Questa categoria qua un po' è nata negli anni 70 con Basaglia. La legge Basaglia c'entra perché la prima cooperativa sociale che è nata nel 1971 è proprio intitolata a Basaglia. La cooperativa sociale, che nasce intorno a una legge che magari condividiamo in parte e in parte abbiamo accettato, è come una legge che ha fatto delle cose che hanno migliorato le condizioni al contorno di alcuni individui che erano in difficoltà, adesso insomma è messa in discussione perché attraverso questa lettura delle cooperative sociali molti dei servizi pubblici sono diventati gestione delle cooperative sociali. In che senso? Si è passati, quindi passo alla pressione contrattuale retributiva, si è passato da un contratto pubblico in cui vedeva i servizi sociali assistenziali le legati ai comuni, alle ASL, alle scuole, alle istituzioni pubbliche, subappaltati o appaltati completamente interi settori a cooperative sociali. Questo ha comportato ovviamente una calmerazione del salario, una retribuzione diciamo non proporzionale a quello che è l'impegno e anche la specificità e la preparazione che gli stessi operatori hanno. In questo universo noi abbiamo approfondito come Radio Blackout varie volte, abbiamo scoperto che ci sono organizzazioni che dal basso tendono ad auto-organizzarsi e quindi a superare la questione delle questioni sindacali, anche perché il contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle cooperative sociali ha questo problema di fondo. Di suo già, se non analizziamo, è un contratto pessimo, uno dei peggiori o se no il peggiore che si possa applicare, ma de fatto, lo dicono innumerevoli testimonianze, il quasi 99,99% di chi ci lavora lì dentro non viene praticamente applicato. Quindi in teoria il contratto peggiore, che se viene applicato stai male, ma il 50% di quello che viene scritto non viene applicato, e quindi lì turni selvaggi a chiamata, prestazioni lunghe, orari straordinari non pagati, mezzo nero o al nero completamente. Questo è un po' quello che è il cappello introduttivo come filo conduttore di tutto quello che diremo adesso. E prima di inoltrarci in tutto questo con la prossima intervista che faremo a Giacomo Gresta di USB Nazionale, proprio del comparto cooperative sociali, ci andiamo ad ascoltare ancora un brano di Chico Barchi intitolato Pedro Pereiro. Buon ascolto. Pedro Pereira pensou e das Petitram domani forse dovrà aspettare ancora per il bene di che senza un soldo. Pedro Pedreiro resta pensieroso e pensando il tempo passa e noi restiamo indietro a aspettare, aspettando il sole, aspettando il tram, aspettando sempre quel famoso aumento che non viene mai. Pedro Pedreiro pensoso ed aspetta il tram. domani forse dovrà aspettare ancora per il bene di chi se son solo vedo pedere aspetta l'allegria e la fortuna con biglietto della lotteria ogni anno aspettando il sole aspettando il tram aspettando sempre quel famoso aumento aspettando il premio della lotteria e la moglie di Pedro sta aspettando un figlio che dovrà aspettare Pedro Pedere pensò se aspetta il tram domani forse dovrà aspettare ancora per il bene di chi è senza un soldo Pedro Pedere aspetta anche l'amore sta aspettando il giorno d'arrivare in porto Pedro non sa ma forse in fondo aspetta qualche cosa al di là del suo mondo più grande del mare ma perché sognarsi e poi ci si dispera ad aspettare ancora Pedro Pedrero vuol tornare indietro ed essere solo muratore senza aspettare il sole aspettare il tram aspettare ancora quel famoso aumento aspettare un figlio che dovrà aspettare aspettare il premio della lotteria aspettare la morte aspettare un porto aspettare di non aspettare più aspettare in fondo niente altro che la speranza afflitta infinita sfinita che arrivi il suo tram Pedro Pedere pensò se t'aspetta Pedro Pedere pensò se t'aspetta Pedro Pedere pensò se t'aspetta il tram che già vien. E 14:02 state ascoltando il Ponte Radio, quest'oggi dedicato ai temi del lavoro e in carico a noi di Radio Blackout. Salutiamo le altre radio in collegamento, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Stacchio, Radio Quar, Radio Neanderthal e Radio Spore. Dunque, come ha presentato poco fa Benny, adesso ci vogliamo spostare un attimo il nostro sguardo dai contratti appunto di quelli di cui si è parlato inizio puntata specifici del settore automotive per andare invece su quello che riguarda circa, se non sbaglio, 400.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale, ovvero il contratto appunto collettivo nazionale delle cooperative sociali. Per parlarne e sviscerare un po' i contenuti di questo contratto e delle novità che ha portato col rinnovo dell'anno scorso, abbiamo come ospite al telefono Giacomo Gresta del Coordinamento Nazionale Cooperative Sociali di USB, a cui diamo il benvenuto qui su Blackout. Ciao Giacomo, ci senti? Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Ok, buon pomeriggio a te, grazie per la tua disponibilità a questa intervista. E dunque, appunto, io ti chiederei di andare a tuffarci subito in questo mondo. Prima di tutto partirei chiedendoti più o meno che tipo di servizi copre questo comparto in generale, appunto più o meno qua di che tipo di servizi stiamo parlando e più o meno un quadro appunto più o meno su quelli che impiega e come numeri. E poi appunto sappiamo che proprio non troppo tempo fa c'è stato uno sciopero nazionale che avete lanciato come sindacato di base appunto proprio di questo comparto, quindi magari se iniziando dalle rivendicazioni che avete portato in questo sciopero poi delinearci un po' quali sono appunto le difficoltà di chi lavora in questo settore. Prego. Ciao, sì, allora diciamo che i numeri che hai riportato più o meno sono quelli corretti, investi circa 400-500.000 persone. Ed è un contratto che si rivolge soprattutto all'assistenza alla persona, quindi parliamo di ospedali, parliamo di assistenza domiciliare ai disabili, agli anziani, assistenza nelle scuole per gli alunni con disabilità, RSA, insomma per anziani, insomma persone di vario genere. Comunque diciamo che si rivolge soprattutto all'assistenza alla persona. questo è, diciamo, l'ambito in cui il contratto cooperativo e sociale è utilizzato. Ovviamente è abbastanza evidente che poi il tema principale è che sono tutte funzioni che lo Stato dovrebbe svolgere in maniera diretta, ma che invece sostanzialmente rimanda alle cooperative in maniera esternalizzando tutta una serie di servizi, sono servizi ovviamente fondamentali ed essenziali, tant'è che per fare uno sciopero sono necessarie tutte le procedure di 146-90, quasi tutti i servizi. Ed è appunto. Ricordiamo, scusa, mi faccio solo un breve accenno perché appunto magari non ne mastica tanto di queste cose. Si tratta di far parte di questa categoria di lavoratori, vuol dire essere costretti ad avere tutta una serie di lungaggini burocratiche prima di poter indire uno sciopero. Il che spesso depotenzia anche un po' l'efficacia. Diciamo depotenzia è uno stimolo, lo rende quasi del tutto inutile, infatti esatto. È chiamata legge anti sciopero, insomma è proprio fatta apposta per evitare di fare sciopero, diciamo, tutta una procedura di stato d'agitazione 10 giorni prima, bisogna aspettare eventualmente la mediazione delle istituzioni del prefetto, poi dopo altri 10 giorni si può indire uno sciopero, ovviamente dopo 20 giorni, sempre che non ci siano delle fasce, delle difficoltà, delle problematiche, che possono essere, per esempio, il periodo del giubileo. Noi, per parlare prima del 13 maggio, abbiamo scelta perché era l'unica data che si incastrava, che non si sovrappremava ad altri scioperi, e che nello stesso momento c'erano le fasce di franchigia degli scioperi dati dal giubileo, durante le quali non era possibile scioperare. Voi immaginate quanto possa essere difficile quando c'è un problema immediato che si sorge su un posto di lavoro o anche a livello nazionale, individuare una data con tutta questa lungaggine burocratica. Lo sciopero ha effetto e viene fatto immediatamente per trovare la soluzione del problema nell'immediato, insomma. Certo. Ovviamente arrivare a 20 giorni dopo è chiaro, si può fare, però è difficilissimo, insomma, o comunque lo complica e lo annacqua molto, insomma, da questo punto di vista. Ecco, dicevamo del 13 maggio, diciamo sì. Che il 13 maggio è stato fatto lo sciopero tendenzialmente su due punti cardini, uno di carattere più generale e l'altro invece più essenziale rispetto a una categoria specifica di lavoratori. E, diciamo, quello di carattere generale, appunto, come dicevo, contro le esternalizzazioni, cioè le internalizzazioni di tutti i servizi. Come ho detto appunto nella mia introduzione, i lavoratori sono tutti servizi che lo Stato dovrebbe, che magari in passato anche ha avuto come sua diretta emanazione tramite un servizio diretto. Oggi la maggior parte, la tendenza non è quella della reinternalizzazione, ma è quella dell'esternalizzazione di tutto questo lavoro, viene sostanzialmente esternalizzato e noi chiediamo invece la reinternalizzazione di tutti questi servizi che ho elencato prima. Alcune cose sono state fatte, per esempio qui nel Lazio, ma anche per altre regioni. Per esempio dopo il Covid sono stati spunti molti host, che erano anche perché ne mancano tanti a Roma, qui nel Lazio sembra circa un migliaio, sono stati reinternalizzati attraverso un concorso pubblico, erano tutti quanti dentro le cooperative sociali o comunque la maggior parte, quindi sono stati reinternalizzati dopo lunghe lotte e dopo anche una pandemia a livello globale che ha un po' smascherato la condizione della nostra sanità, insomma. Ma ovviamente non parliamo solo di sanità, che è la cosa più scandalosa, ma ovviamente parliamo anche di tanti altri lavori, insomma, in particolar modo, appunto, per entrare sulla questione un po' più vertenziale, riguardava i lavoratori dell'educativa scolastica che durante il periodo di estivo rimangono senza retribuzione, senza ammortizzatore sociale e anche senza contributi pensionistici. Questo perché? Perché hanno un contratto part-time ciclico verticale, il contratto ciclico verticale, che è fatto appunto che il lavoratore sottoscrive un contratto che dal mese di settembre al mese di giugno lavora all'interno delle scuole. Nel momento in cui le scuole vengono chiuse, questi lavoratori rimangono senza nessun tipo di ammortizzatore sociale, né accesso alla NASPI, né alcun tipo di sostegno alla propria vita. Parlavi prima del rinnovo contrattuale, appunto il rinnovo contrattuale è stato assolutamente insoddisfacente e ovviamente questo aggrava ancora di più la situazione, visto che abbiamo un'inflazione, un caravito che sta mordendo alla vita dei lavoratori e delle lavoratrici, e quindi il rinnovo contrattuale, che adesso bisognerà discutere nel 2023, il nuovo rinnovo contrattuale, speriamo che ciò che stiamo costruendo con questa rete appunto di lavoratori e lavoratrici su tutta Italia possa dare la scossa a questo settore, perché secondo me il 13 maggio è stata una giornata, con me, ma penso un po' come tutti, una giornata un po' del risveglio di questo settore, che di fatto uno show di questo tipo non l'aveva neanche mai ipotizzato. Invece improvvisamente è tutto un settore che si è accorto che ha tanti diritti, è un servizio essenziale, è un servizio importantissimo, ma è assolutamente sottopagato e sfruttato, insomma. Oltre ad essere molto soggetto al burnout, perché ovviamente quando parliamo di servizio alle persone automaticamente parliamo di burnout, parliamo di persone che lavorano con persone in difficoltà, sotto stress, e poi nel caso sempre delle persone che seguono i ragazzi disabili delle scuole, appunto hanno oltre a tutto questo hanno anche una pausa di 3 mesi in cui non hanno nulla. E spesso devono riciclarsi, per chi può, chi è più giovane, soprattutto in altri lavori di vario tipo, per esempio bar, ristorazione e quant'altro, se non addirittura affidarsi, noi l'abbiamo messo anche sul nostro sito Facebook, sulla nostra pagina Facebook di OSB Cooperative Sociali, proposte di lavoro per quei famosi centri estivi, che sono anche quelli difficilissimi e complicatissimi, anche proprio nella possibilità di lavorarci, e a 6 euro l'ora a partita IVA. Questa insomma è la condizione in cui versano questi lavoratori e lavoratrici. Sì, ecco, prima hai parlato giustamente del fatto che uno delle criticità di questo settore è il fatto che prima questi servizi erano interni e vengono sempre più esternalizzati. Questo crea questo odioso meccanismo degli appalti e subappalti, che poi è anche l'origine per la quale assistiamo anche a questo enorme abbassamento di stipendi e di compressione di diritti e anche di, tra l'altro, compressione di agibilità nel poter, nell'avere anche solo un minimo di senso all'interno di queste realtà che, diciamocelo tranquillamente, per anni hanno un po' vissuto con uno spirito molto, diciamo, volontaristico, cercando sempre un po' quello spirito che contraddistingue chi lavora nel terzo settore, di portare comunque a casa un servizio, quindi cercando di non, diciamo, confliggere troppo con diciamo le parti datoriali del momento, però appunto questo meccanismo, come sappiamo, fa male a tutti quanti, cioè nel senso al servizio stesso, ai lavoratori e lavoratrici. E si stava discutendo anche di c'erano sul piatto vari disegni di legge proprio per proporre l'internalizzazione di questo tipo di servizi. A che punto è, se ne parla ancora di queste proposte di leggi? Voi cosa ne pensate? Allora, riguardo intanto hai centrato il punto che la questione principale, al di là del contratto, che ovviamente fa schifo e non dobbiamo starla a ripetere qui all'infinito, anche per tutta una serie di istituti contrattuali, ne dico uno solo, la banca ore, che sono utilizzati apposta per rubare salario ai lavoratori e alle lavoratrici, e se vogliamo ci possiamo anche entrare dentro, però insomma chi ci sta nel settore sa benissimo qual è il meccanismo che viene utilizzato per rubare salario e sul lavoro supplementare o straordinario ai lavoratori e alle lavoratrici, oltre a, per esempio, le famose notte passive, sempre del nostro contratto, che di fatto è un lavoro pagato con una piccola... con una mancia, potremmo dire, le cifre proprio. Esatto, con un obolo per poi lavorare tutta la notte, perché di fatto poi vengono chiamate le notte passive perché dovresti stare là a dormire e essere chiamato al momento, quando in realtà poi ci viene riportato che sostanzialmente è una nottata di lavoro a tutti gli effetti e per tutti i versi. Sull'internalizzazione è chiaro che qui è un processo lungo, complicato, difficile. Per quanto riguarda appunto la sanità, si stanno facendo dei piccoli passi avanti. Sulla questione, ad esempio, se noi abbiamo terzo punto, che era molto di categoria, internalizzazione presso il Ministero della Pubblica Istruzione, vabbè, oggi si chiama MIM, il Ministero della Istruzione del Merito, scusate i nomi che... Abbiamo sigle di continuo. l'Istruzione del Merito per quanto riguarda appunto i lavoratori dell'educativa scolastica. Qui ci abbiamo anche un altro tema molto importante, a parte il fatto che sono questi bandi che vengono fatti appunto per le cooperative, vengono emessi dai comuni, che i comuni hanno sempre meno disponibilità finanziarie, quindi vanno a intaccare questo servizio che è fondamentale dato dalla legge 104, quindi diciamo è un servizio fondamentale, tant'è che quando queste ore vengono assegnate ogni anno a un bambino disabile, vengono decurtate, le famiglie stesse, col quale abbiamo cercato spesso di avere un fronte comune, ma col quale è sempre stato un po' complicato, per mille problemi che adesso non sto a raccontare, si ritrovano magari tagliate delle ore da 10, 12, 15, che hanno settimanali a 5, 6, 7, ovviamente voi potete immaginare che 6, 7 ore a settimana sono una cosa inutile da dare. Ma perché i comuni hanno continui problemi di bilancio e quindi per ovvie ragioni tagliano, per ovvie ragioni dal loro punto di vista ovviamente, vanno a tagliare questo come prima cosa servizi sociali, quando parliamo ovviamente su prospettive più larghe servizi sociali, sanità, pensioni, cioè i governi, che siano enti locali o che siano quelli nazionali, sicuramente non vanno a tagliare per esempio le spese militari, di cui sappiamo benissimo qual è il programma europeo, e invece magari si vanno a tagliare sempre quelli che sono i servizi alla cittadinanza, e questo ovviamente reca tantissime problematiche. Noi diciamo Fratelli d'Italia, in particolar modo stranamente, anche se non tanto stranamente, perché se dobbiamo dirlo, io l'ho scritto anche pubblicamente dentro il nostro comunicato all'interno del nostro USB, cioè il cerchio magico, il triangolo dello sfruttamento dato dalle cooperative, dai sindacati confederali e dall'amministrazione spesso di centro-sinistra ma anche di centro-destra, sono una vera e propria gabbia per i lavoratori, che si ritrovano un fronte comune di fatto contro i propri interessi di classe, e quindi ovviamente i lavoratori si ritrovano morti da questa situazione, solo attraverso l'organizzazione, attraverso l'esplosione di rabbia che secondo me c'è stata anche il 13, anche con alcuni momenti anche di tensione in alcune parti d'Italia, ovviamente è l'unica strada per ribaltare il tavolo di questa situazione di sfruttamento intensivo di questi lavoratori e lavoratrici. Sull'interrogazione appunto c'era stata una disegno di legge della senatrice Bucalo, su spinta delle famiglie siciliane, perché poi noi abbiamo parliamo di uniformemente di questo settore da nord a sud, ma ovviamente quando parliamo di enti locali parliamo di sud, di comuni in continuo di stesso finanziario, e al nord magari una situazione un po' migliore, ma ovviamente difficile allo stesso momento. In più aggiungiamo un'altra cosa, che questo non è una situazione in cui si va a morire come servizio, nel senso è un servizio invece in continuo aumento. Abbiamo dati che ci dicono che le certificazioni dei ragazzi con disabilità aumentano ogni anno del 10%. Ciò vuol dire che ogni città, ogni comune, ogni ente locale si deve mettere in testa che questo budget deve essere implementato quantomeno del 10% ogni anno, oltre al fatto che ci sono dei sacrosanti aumenti contrattuali. Per esempio, faccio un esempio di Roma che conosco meglio di tutti, ma in proporzione si possono fare in qualunque altra città. Roma spende per esempio 92 milioni di euro per il servizio di assistenza ai comuni con disabilità per tutto il comune, 92 milioni di euro, e il prossimo anno non sappiamo se verrà tagliato, perché sappiamo che il governo Meloni ha tagliato 4 miliardi agli enti locali e a Roma sarà un totale di 80 milioni, e ci è stato già detto faremo di tutto per non toccare il servizio. Ciò vuol dire rimarranno i 92 milioni di euro, ma con un aumento del 10% delle certificazioni vuol dire che questo servizio si andrà a comprimere, accompagnato al 12% di aumento contrattuale, vuol dire che il prossimo anno a Roma avremo una compressione del 22-23% di questo servizio. Questo deve essere abbastanza esplicativo, e oltre al fatto che non è più sostenibile, l'ANCI dovrebbe prendere posizione, allo stesso momento dovrebbero essere gli stessi, lo stesso governo che prenda in mano questa cosa e internalizzi questi lavoratori che dentro le scuole sono lo stimolo del cane. Assolutamente, ci sembra sì, forse una delle poche soluzioni percorribili, almeno appunto per togliere tutta questa massa di gente da questa condizione di ricattabilità e da di 70-80 mila lavoratori, certo, tra l'altro che sono tra l'altro sulla, come abbiamo detto più volte quando abbiamo trattato le problematiche di queste lavoratrici e lavoratori, sono di fatto sulla soglia della povertà con i contratti che hanno in tasca legali firmati, ma nonostante questo appunto non restano di fatto dei lavoratori poveri. Allora io parliamo di lavoratori che diciamo che i più fortunati guadagnano 1.100-1.200 euro al mese, ma i salari si attestano più o meno intorno ai 700-800 euro per il famoso part time involontario, perché non sono i lavoratori che scelgono di fare questo, avere un part time 18, 20 ore, 22 ore, 24 ore, ma sono i padroni di queste cooperative, spesso sedicenti uomini di sinistra, rispettosi delle loro dei diritti dei lavoratori, che preferiscono tenere un lavoratore a poche ore, 12, 15 ore, magari poi fare 15, scusa, tra l'altro 15 di lavoro supplementare, senza magari pagare straordinari e quant'altro. Insomma, questa è un po' la situazione abbastanza drammatica per queste lavoratrici, io direi soprattutto perché è un settore prettamente femminile, in alcuni casi arriva anche al 90%, comunque è un settore il cuore della persona, spesso e volentieri, lo dico io che sono uno di quelli che lavora dentro questo lavorato, insomma oggi faccio il sindacalista al 100%, però ho lavorato per tanti anni insomma come assistenza domiciliare. È un lavoro che oltre a essere molto usurante, perché la schiena la puzza dopo qualche anno di lavoro, perché anche là ci sono problemi di sicurezza sul lavoro, perché all'interno delle famiglie magari gli strumenti non vogliono, gli strumenti come i sollevatori non vogliono essere in casa perché impicciano, perché danno fastidio, e quindi devi tirare sul disabile con la tua propria stessa forza. Sì, sì. Lavoro usurante anche perché ci ritroviamo spesso e volentieri sotto ricatto, perché ovviamente se tu chiedi diritti, quindi il sollevatore, quindi una serie di cose, dico vabbè perfetto, ti mandiamo via, ti facciamo per un'altra cosa, e le famose 15 ore di contratto più altre 15 che sono fondamentali per raggiungere i 1000 euro, e quindi parliamo sempre di cifre abbastanza basse, non te le fanno fare perché ovviamente da contratto tu hai solo il diritto a avere 15 ore, certo. Quindi sei sotto ricatto continuamente. Esatto, e io ti saluto adesso Giacomo Gresta, coordinamento nazionale cooperative sociali di USB, perché andremo proprio a parlare come prossimo argomento di quello che succede quando chi lavora in questo tipo di cooperative prova ad alzare la testa. Infatti ci fionderemo sul piano qua torinese locale per raccontare la storia di Marco e Giancarlo, licenziati appunto alla cooperativa sociale Arcobaleno. Certo. Io faccio un saluto a tutti, ovviamente non posso non ricordare in questa intervista l'importante referendum che ci sarà l'8 e il 9, che immagino avete già detto più volte, però è importante ribadirlo, oltre al fatto che come USB stiamo lanciando anche altri sindacati di base lo sciopero del 20 giugno con manifestazione nazionale del 21 contro la guerra, le spese militari e il genocidio in Palestina. Assolutamente, grazie per averci ricordato questi appuntamenti e grazie anche di averci aiutato a capire meglio le condizioni di chi lavora in questo ambito che stiamo trattando, e ci sentiamo, buona continuazione di lotte. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao ciao. Adesso il guinzaglio in ufficio, adesso ti vedo al patibolo quando sali sul pullman. Fallimento, fallimento, fallimento, fallimento. Se penso a ciò sto in silenzio, sono una macchina, so fare solo questo. Nessun amico, sono esausto, indulgente o assassino, medesima fine. Sono il suffragio universale qui. Dico il cazzo che voglio, bitch. tipo eccitante, mi han sostituito un secco. Sale sul palco, fa la mia città, si accorge che l'ho trafitta, ma non è in plastica, non ha emozioni, mi mette le sue cosce in faccia, schiaffi, le piaci, sparisci, nemico di me stesso. Canto un lento fallimento, hai finito l'uni, adesso il guinzaglio in ufficio, adesso ti vedo al patibolo quando sali sul pullman. Fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento. Sta puttana vuole fottere con te, ne becca la settrice mia. Culto senza immagine, scia del commerciale, sul sandwich bucca che si sia. Fantasista vuole un ruolo anche lui, fa il critico musicale, già già sto con lui, ma non ha capito i miei fondamentali, qui siamo tagliagole a mani nude. Hai finito l'uni, adesso il guinzaglio in ufficio, adesso ti vedo al patibolo quando sali sul pullman. Fallimento, fallimento, fallimento, fallimento. Se penso a ciò sto in silenzio. Sono una macchina, so fare solo questo. Fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento, fallimento. Benvenuti a tutte e a tutti in questa grande giornata di box. Sì, Amilcare, oggi ci aspetta un grande spettacolo con due grandissimi campioni. Puoi dirlo forte, Ted! Ma eccoli arrivare! All'angolo destro del ring, pelle scura! Su pantaloncini bianchi! Wow! L'arco è come from the sea! Abdel Mosso Schiaffo! All'angolo sinistro, la belva occhialuta campione di sollevamento libri, il giovane Gaetano, amore di mamma! Ci attende una grande sfida! Big match! Il risultato è davvero incerto! Ma ecco che giunge l'arbitro! Sì, Amilcare, quando un immigrato irregolare incontra un precario senza titoli, non sappiamo cosa può succedere. Sicuramente si batteranno senza esclusione di colpi. Sarà una lotta all'ultimo sangue. Ma ecco che ha suonato il gong. Round one. Due campioni prendono il centro del ring. Si studiano attentamente coi guantoni ben alzati sul viso, pronti a scattare. Abdel e Gaetano si girano intorno, come around, si scrutano. Wow, incredibile! Gaetano che attacca, finta di destra e gancio with the fucking left, porta contro l'immigrazione e crea il reato di clandestinità. Wow, che colpa, Milcare. Abdel è stordito e senza documenti, che non potrà mai avere. Gaetano ne approfitta e con un montante fa costruire un centro di rimpatrio. Che botta, amici! Abdel non arretra, si muove vorticosamente attorno all'avversario. Ecco che finge un destro, prova with the left col sinistro. Gaetano si difende, ma oh mamma, oh, un dritto implacabile sul viso dell'avversario. Si difende dalla cooperativa per migranti dove svolgerà il servizio civile. Oh mamma, giuro, fucking colpo. Ma ecco che l'arbitro manda tutti agli angoli. End of the first round. L'arbitro richiama i pugili al centro. Via, inizia il secondo round. Round two. Abdel parte deciso, confeziona un mulinello di pugni e colpisce da tutti i lati Gaetano, che cerca di proteggersi come può. È braccato. Abdel gli ruba il telefono, pam, e il computer su cui stava scrivendo la tesi. È un colpo basso che manda sulle corde il povero Gaetano. Il giovane studia, nonostante tutto il suo lavoro perso. Affronta il colosso big africano. Sinistro, montante, e col destro colpisce Abdel. Oh, dritto in faccia. In your face. 10, 9, 8. Denuncia alle autorità la casa abusiva dell'avversario e lo fa sfracciare. Oh wow, ormai senza casa Abdel si appresta al suo angolo. Fino al secondo round. Che match, Amilcare. I due combattenti non si stanno risparmiando un colpo. Ma ecco che ricomincia il terzo round. Round 3. I due sono allo stremo, pronti a darsi colpo di grazia. Abdel è senza casa e senza documenti. Gaetano ha perso il lavoro e la borsa di studio. Si studiano al centro del ring. Oh, incredibile spettacolo, signori e signori, incredibile. Abdel attacca con un programma finanziato dall'UE. Sottrae il misero lavoro da lavapiatti da Gaetano, già sottopagato. Gaetano esce dal ristorante e ruba la bici ad Abdel, impedendogli di lavorare come ciclofacciorino. Wow, Abdel si abbassa la paga e si accapara la stagione da operaio agricolo in Francia. Wow, che match! Gaetano, risentito, fa bruciare la baracca di Abdel. Unico giaciglio durante i lavori sotto caporalato. Wow, mamma! Sono stremati e grondanti di sangue. Continuano a colpirsi rabbiosamente. Gaetano gli fa arrestare il cugino mentre Abdel ruba la ragazza all'avversario. Wow! Wow! 10, 9, 8. Oramai sono spogli di fucking all tutto. Che incontra, Milcare? Mai visto una ferocia così. Ehi, ma che succede? Incredibile! I due si abbracciano e si baciano. Wow, non credo ai miei occhi, amici a casa. Un vero bacio. Un bacio alla francese tra due avversari che fino adesso se ne sono dati di santa ragione. Ma non è finita. This is not the end. Abdel e Gaetano si avventano minacciosi sull'arbitro. Oh, che botte. Oh, mamma, buccia, basta. Incredibile, amici. L'arbitro viene scaraventato fuori dal ring. Ormai completamente tumefatto. Mai visto una roba del genere. 3, 2, 1 KO. Abdel e Gaetano escono dal ring. Mano nella mano. Pardon. Guancione nel guancione. Incalzati dall'ovazione generale del pubblico. Indisibile this night. Wow. Incredibile. Che nottata, Ted. Sì, Amilcare. Il popolo può far festa solo quando i lavoratori uniti attaccano decisi i responsabili del loro sfruttamento. E già lo pensiamo tantissimo anche noi questo, e condividiamo i contenuti dei nostri bellissimi sketchini umoristici, ma anche che danno spazio alla riflessione su quello che succede nella nostra classe sociale. Ma adesso torniamo invece all'ultimo approfondimento di questo Ponte Radio. Abbiamo parlato approfonditamente di quello che sono le condizioni di vita e di lavoro di chi, di chi opera nel settore delle cooperative sociali. Per lo più si è detto prima che si tratta di servizi alla persona. Uno di questi servizi è anche quello della raccolta di rifiuti. E infatti andremo a parlare con Marco, che abbiamo al telefono anche quest'oggi qui con noi, che è un ex lavoratore della cooperativa Arcobaleno. Ciao Marco, ci senti? Sì, vi sento. Buongiorno a tutti. Buongiorno e bentornato di nuovo. Noi ci siamo sentiti già più volte qui su Blackout. Adesso hai la possibilità di raccontarci quello che è successo a te e i tuoi colleghi quando avete provato a alzare un po' la testa rispetto alle condizioni di lavoro che avete, e quindi non ti rubo altro spazio e ti lascio raccontare un po' come avete iniziato innanzitutto questo tipo di mobilitazioni, sulla base di quali appunto rivendicazioni e quali sono state le prime conseguenze della vostra azione sindacale. Diamo giusto una piccola anticipazione sul fatto che voi c'era già, diciamo, un sindacato all'interno dell'azienda, della cooperativa, e voi invece avete aderito a un altro sindacato di base, USB. Prego. Sì, infatti nel 2023 c'era già la CGIL all'interno, ma con le storie passate personali che avevo avuto con questo sindacato, mi sono rivolto a USB e abbiamo deciso di intraprendere una vertenza per il riconoscimento delle condizioni economiche del contratto di igiene ambientale. E poi c'erano vari problemi sulla sicurezza, anche abbiamo messo anche in ballo queste cose qui, e niente, abbiamo fatto i primi incontri con la cooperativa, la quale si è sbattuto tutte le volte in faccia, e quindi siamo stati costretti a proclamare lo stato di agitazione e a fare i primi scioperi della storia di questa cooperativa. Ebbene, poi siamo andati avanti con questi scioperi, cioè, la tensione è sempre venuta ad alzarsi, i dirigenti non volevano saperne di concederci nulla, e niente, ed è successo che poi alla fine, a furia di starci addosso, di starci dietro, cioè un loro consigliere ci hanno attaccato in tutti i modi, nelle assemblee dei soci hanno iniziato a dire che eravamo delle mele marce. La prima cosa che hanno fatto dopo che ci siamo rivolti a USB, che abbiamo richiesto queste cose, e inviare un'assemblea dei soci in cui dicevano a tutti i lavoratori che a causa dell'evidenza che io, Giancarlo ed altri colleghi avremmo portato avanti, la cooperativa non avrebbe più potuto erogare i premi di fine anno, perché lì ci sono dei premi in base al punteggio di fine anno, e lì già hanno iniziato a metterci contro un bel po' di colleghi, hanno iniziato a guardarci male, a isolarci. Dopodiché, la ciliegina sulla torta, dopo qualche mese è uscito un consigliere, un tipico che si chiama Giancarlo Palazzo, e ha mandato un messaggio a tutti i soci della cooperativa che a causa delle nostre lotte, cioè, la cooperativa avrebbe rischiato di perdere gli appalti. Dopo due giorni perdono un appalto significativo, di una parte di lavoro degli ingombranti, e quindi tutti pensano che è stata colpa nostra, cioè, ritorno in assemblea, ecco avete visto con queste cose. Anche perché, scusami, ricordiamo che l'occupabilità delle persone come voi che lavorano appunto per queste cooperative sociali è abbastanza un miraggio, nel senso un grande raggiungimento, perché poi ritrovare di nuovo qualcosa diventa sempre più difficile, perché appunto parliamo di persone che hanno varie fragilità economiche, di salute e sociali di vario genere, quindi diciamo anche gettare benzina sul fuoco della possibile conflittualità tra colleghi è veramente all'interno di una cooperativa sociale è qualcosa di veramente sì, disgustoso, viene da dire, una roba miserabile, cioè, non ho mai visto, si sono abbassati un livello proprio, cioè, io non pensavo veramente fossero così, cioè, invece hanno tirato fuori la loro vera faccia, sono delle persone ignobili, delle persone malvagie. Poi siamo andati avanti comunque con questa cosa, dopo che già non finisce qui, come direbbe non qualcuno. Finisce qui, sì. Allora, tutti i colleghi ci hanno andato addosso, due colleghi sono venuti a minacciarmi di morte nel cortile, quindi sono sentito costretto ad andare in questura a denunciare la cosa. Dopodiché mi hanno messo dietro qualcuno a controllare il mio stato WhatsApp privato, e inavvertitamente avevo pubblicato una frase ritenuta denigratoria nei confronti della cooperativa, e quindi sono stato licenziato. Le scuse però sono che la scusa è stata questa, però alla base c'era la nostra avvertenza, c'erano tutte le mail che io ogni giorno mandavo per segnalare insicurezza sul lavoro, pesi superati, limite di peso superati sui mezzi, tutto documentato con fotografie con quant'altro. Stavi effettivamente diventando scomodo per loro, quindi hanno usato questo scomodo, pretesto, sì, del danno dell'immagine, del tuo status WhatsApp, tra l'altro anche lì, che è stato poi preso, buttato anche su altre chat nelle, sì, quali non eri presente, buttato, con anche un rispetto della tua, dei tuoi dati, della tua privacy. È stato buttato su una chat della chat della CGIL, cioè di un'organizzazione sindacale che già non aveva fatto nulla fino a quel giorno in cooperativa, e in più questo signore, questo RSA, ha buttato questa immagine di lì, dissociandosi totalmente dalle nostre lotte, e ovviamente tirandosi dietro qualcuno, cioè lì c'era molta ignoranza. Da questa roba qui, però, questa immagine è iniziata a girare, perché io me ne sono accorto dopo 2 o 3 ore e ho subito eliminato questo post. Però è iniziato a girare, e le conseguenze sono state il mio licenziamento. Dopodiché non gli bastava, perché a mobilitarsi all'interno dell'azienda, della cooperativa, siete stati tu principalmente. Principalmente è Giancarlo. E questo di Giancarlo, cioè, non gli bastavo io, cioè, rimaneva Giancarlo, che era un altro delegato molto scomodo, perché tutti e due lì dentro eravamo scomodissime per l'azienda, cioè, non ci sopportavano veramente più, perché per ogni cosa gliela tiravamo fuori, la sbattevamo in faccia. La cosa più meschina, più ignobile che hanno fatto questi signori è di attaccarsi a Giancarlo, diventato invalido dopo 10 anni di lavoro, si è spaccato le ginocchia a salire e scendere da quel camioncino. Aveva già dei problemi, lui è bipolare, però questo non è stato assunto con la legge 381, quella che loro vantano di salvare ex detenuti, ex tossicodipendenti. Hanno trovato queste scuse lui non è più idoneo, secondo il medico aziendale, che probabilmente con gli interessi dell'azienda, non è più idoneo alla mansione. Invece la certificazione del CTO, della commissione del CTO, diceva totalmente una cosa diversa, che lui era idoneo, però accompagnato, insomma. E anche qui è stata una cosa veramente malvagia quella di... Esatto, anche qui svegliamo un attimo il fatto che c'è stata questa visita medica per l'idoneità, che però di solito deve avvenire, diciamo, a campione, non per il caso specifico di una persona che si vuole far, esatto, fuori. E quindi, nel senso, sarebbero state dovute essere visitate anche altre persone per avere appunto un'idea dell'idoneità di chi era all'interno della cooperativa. Invece è stato fatto solo lui. Perché sapevano bene che lui non stava bene, che aveva le ginocchia a pezzi, che faceva veramente difficoltà a fare quel lavoro, però con tutte le cose, tutte le opportunità che hanno lì all'interno, cioè che danno solo ai lecciapiedi, tutti i lecciapiedi, anche se non hanno patologie, hanno dei posticini tranquilli, lavori che poteva tranquillamente fare anche Giancarlo, certo. Però non hanno voluto proprio saperne, cioè, quindi anche lì abbiamo capito benissimo che è tutta una scusa per farsi fuori l'altro delegato e per indebolire tutto il gruppo USB all'interno. E per carità, in questo momento ce l'hanno fatta, perché ci sono ancora alcuni colleghi che resistono, però è dura, perché questo è stato prima un esempio, colpirne uno per educarne 300, no? Come ha scritto qualcuno. Già. Ma invece voi comunque non vi siete fermati, avete continuato a mobilitarvi. Assolutamente no, non ci fermiamo fino a quando non li portiamo in tribunale. Io vorrei, il 18 di luglio avrò l'udienza per la reintegra. Io vorrei essere integrato perché amo quel lavoro. Io l'ho fatto per 16 anni, l'ho fatto anche molto bene sempre. Le persone in giro mi vogliono bene, anche le custodie. Intanto io voglio essere integrato, però io voglio che questi qui se ne vadano via, che gli venga tolto l'appalto, perché non sono degni di avere un appalto milionario e di trattare le persone in questo modo. Gente che esce alle 7 e gli regala un'ora e mezza di straordinario per finire i giri, sempre sotto tensione, minacce velate sono, perché se tu finisci il giro noi ti facciamo un contratto tempo indeterminato, se non finisci il giro o se prendi la patente C, che passi l'esame per la patente C, ti facciamo un contratto, altrimenti te ne rimani a casa. E quindi questi poveri cristi corrono come dei pazzi, caricano come dei pazzi, poi ci sono anche le conseguenze che abbiamo visto tutti, mezzi che vanno a fuoco, mezzi che hanno giro per strada, cioè queste persone qui non sono più in grado di gestire un appalto, a mio parere. Assolutamente, cioè, sotto gli occhi di tutti. È solo propaganda quella che fanno loro in giro, solo propaganda. Ogni giorno inventano qualcosa, vanno da qualche parte a portare in giro la loro propaganda con quei 3 o 4 loro fedelissimi che ormai rappresentano solo loro stessi, gli stessi che poi sono gli stessi che poi mi hanno minacciato. Ma giustamente hanno le giuste conoscenze ai piani alti, quindi se lo possono permettere. Sì, probabilmente sì, possono permettersi. Cioè, pensano di essere al di fuori di tutto, delle leggi, tutto quanto, perché non è possibile che sia l'unica cooperativa a Torino che applica un contratto povero delle cooperative sociali nell'igiene ambientale. Tutte le altre si sono adeguate e applicano il contratto di igiene ambientale. Ovunque vai, anche la Frastate, per farli in nome, la Frastate, la nuova cooperativa. Sì, c'era stata anche la vittoria di una causa proprio dei lavoratori dell'era Bologna, che erano proprio, avevano proprio, il giudice gli aveva riconosciuto appunto il passaggio appunto al contratto del, come quello che dici tu appunto, del specifico, esatto, e non quello delle cooperative sociali. E Marco, io siamo veramente qui, tempi strettissimi, io ti ringrazio tanto per la tua testimonianza che ci ha raccontato un po' l'aria che si respira all'interno di queste cooperative sociali quando si prova ad alzare la testa. Grazie ancora mille, in bocca al lupo per tutto. Grazie e a voi, buona continuazione di giornata. Ascoltato. Figurati. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. La capacità di risolvere problemi è la base stessa dell'intelligenza. Ha un grande successo riprodotto in tutto il mondo. Ha un grande successo riprodotto in tutto il mondo. Ha un grande successo riprodotto in tutto il mondo. Sono andato a Sion. Mi hanno detto vai a Chamozon. Sono andato a Chamozon. Mi hanno detto torna a Sion. Sono andato a Sion. Mi hanno detto vai a Chamozon. Sono andato a Chamozon. Mi hanno detto torna a Sion. Una frazione minuscola di esseri viventi su questo pianeta utilizza una cosa che è il cervello. Vado a Fulì a cercare lavoro. Arrivo a Fulì e trovo lavoro. Vado a Fulì a cercare lavoro. Arrivo a Fulì e trovo lavoro. Ma il fatto è che anche in Svizzera non ho contratto. Ma il fatto è che anche in Svizzera non ho contratto. Allora cerco lavoro, dopo trovo lavoro. Poi perdo lavoro, quindi sto senza lavoro. Cerco lavoro, dopo trovo lavoro. Se perdo lavoro, poi ritrovo il lavoro. Ma sempre a 10 ore con questo sudore, senza neanche firmare. Mi sa che intorno a Giamarina che facevo il direttore. In cuor suo e fuori posto. Ah, la vita è bella. Che vita è bella. Il mondo. La vita è bella. È bella, ma... Tutte quelle caratteristiche funzionali che noi normalmente associamo al nostro cervello sono presenti anche in esseri senza cervello. Senza wifi non mi incazzavo mai. Senza wifi non mi incazzavo mai. Senza wifi non mi incazzavo mai. Senza wifi non mi incazzavo mai. Dove vai con quei soldi? Stanchi, siamo stanchi. Ma in un'ora faccio 15 franchi. Stanchi, siamo stanchi. Ma in un'ora faccio 15 franchi. Stanchi, siamo stanchi. Ma in un'ora faccio 15 crampi. Allora smisto franchi, smisto tanti. Smisto franchi, sono tanti. 15 crampi, allora 15 franchi, allora sono 15 crampi, allora 15 franchi, allora sono. Para, para, para, para. Para, para, para, para, Francesi, para, para, para, para, para, para, para, tanti, siamo in tanti, ma non ci sono svizzeri dai campi. Tanti, siamo in tanti, ma non ci sono svizzeri dai campi. Tranne il padrone, tranne il padrone. Ogni cane ha un padrone, ogni padrone ha un cane, ogni padrone ha un cane, padrone ha un cane, padrone ha un cane, padrone ha un cane. Spiega il modo efficace di queste dinamiche. E ritorniamo sui 105.250 della modulazione di frequenza di Blackout, ma anche su Radio Onda Rossa, Radio Wombat, Radio Spore, Radio Quar, Radio Neanderthal. Yuhu, non hai dimenticato nessuno. Forse no, ci siamo anche noi, abbiamo già detto. Quindi grazie mille per aver ascoltato questo ponte radio che abbiamo realizzato sui temi del lavoro. Noi abbiamo esaurito qui i nostri approfondimenti, quindi vi lasciamo ancora agli ultimi due contributi che la nostra parte di redazione blackoutiana più creativa ha confezionato, sempre a tema lavoro, esatto. E poi insomma vi lasciamo le riflessioni personali sulle questioni che abbiamo lanciato, sulla tematica grossa, che speriamo che con questo dibattito radiofonico sia un po' entrata anche a far parte del vostro quotidiano, con la questione dell'Istituto del Contratto Collettivo Nazionale, che in questa puntata abbiamo messo in discussione. Assolutamente. E vi salutiamo e vi lasciamo qua su Blackout dopo ad Arraga, e sentiremo invece il prossimo venerdì sempre su Ponte Radio, su con le 7 radio gemelle indipendenti dell'etere italiano. Vi lasciamo con gli ultimi due sketchini e buona continuazione. 1. Ho messo la casa su Airbnb, così mi ci pago l'affitto. 2. Mi muovo in macchina con BlaBlaCar per accollare la benza ai passeggeri. 3. Vado su Tinder e cerco solo fumatori, così gli scrocco il tabacco. 4. Le vacanze le faccio da woofer e i concerti da volontario. Viva Giovanotti, tanto quando sono lì poi gazzeggio. 5. Con il coach surfing rimorchio le straniere. O se proprio va male mi faccio i ganci per l'estero. 6 o 7, non mi ricordo. Ora mi faccio assumere con Glovo, così smetto anche di andare in palestra. 8, 9, 10, non mi rimane che mettere a valore mia madre. E poi mi sono venduto tutto. Con sesso spingo il disagio fino al mio collasso. Non ti sta bene ma fa lo stesso. 18, dovrebbero fare un servizio sharing dell'anima. Vabbè, in fin dei conti 18, 19, 14, 2 è sempre meglio che lavorare. Se non si date i diritti noi faremo i capricci. Se non si date i diritti noi faremo i capricci. Bravi ragazzi, la propaganda per lo sciopero generale ha fatto e sta facendo un bene immenso. Essa indica ai lavoratori un mezzo efficace per emanciparsi, distrugge la fede cieca e nefasta nei mezzi parlamentari e legislativi, scaccia dal movimento operaio gli ambiziosi che vorrebbero posti di potere, dà mezzo ai rivoluzionari di impegnare nella lotta la grande massa dei lavoratori e mette questa lotta in tali termini che deve risultare una radicale trasformazione dei rapporti sociali. Noi siamo pronti a intraprendere uno sciopero che sia festoso, uno sciopero capace di comunicare le nostre istanze e prorompere con la nostra gioia. Quella di oggi sarà sì una giornata di lotta, ma anche una giornata di grande festa. Nessuno, e dico nessuno, potrà fermare i nostri girotondi colorati. Si è andata formando l'illusione che la rivoluzione si possa fare quasi pacificamente, e a furia di insistere sulla grande importanza della lotta economica si è quasi dimenticato che a fianco, in difesa del padrone che affama, vi è un governo che affama e uccide. Lo sciopero generale, quando si concepisce come uno sciopero legale e pacifico, è una concezione assurda. E invece non è vero! Noi resisteremo e porteremo avanti questo sciopero finché il padrone dovrà chiederci scusa. I am sorry. Finché rimarremo uniti, il padrone non potrà più produrre né arricchirsi, e quando rimarrà privo di risorse sarà obbligato ad ascoltarci. Noi non ci lasceremo piegare. I lavoratori sarebbero morti di fame assai prima che i borghesi cominciassero a rinunciare anche solo a un poco del loro superfluo. Se si vuole fare lo sciopero generale, bisogna essere disposti a impossessarsi dei mezzi di vita in onta ai pretesi diritti di proprietà privata. Ma allora vengono i soldati e bisogna scappare o battersi. Se dunque si sa che lo sciopero dovrà portare al conflitto con la forza armata, perché non prepararvici? La violenza porta solo alla violenza, e a noi ci fa schifo il sangue. noi metteremo fiori nei loro cannoni e cime nei nostri di cannoni. Così abbatteremo il capitale. Non con la violenza, ma con la forza dei nostri ideali. Non con la rabbia cieca, ma con le nostre danze. Non con le armi che servono solo ad uccidere, ma con l'amore. La nostra è una rivoluzione pacifica. Quando vinceremo non ci saranno ghigliottine, ma in ogni piazza si ballerà la Macarena sotto un tripudio di palloncini colorati. Queste sono le nostre armi. I rivoluzionari si devono armare per essere in grado di fare la rivoluzione quando l'occasione si presenta. Gli operai non rivoluzionari si debbono armare, almeno per non farsi bastonare come montoni. I proletari non potranno mai con risparmio raccogliere un capitale col quale lottare contro il capitale dei padroni, ma possono bene, con un po' di volontà, procurarsi una rivoltella. E vi assicuro, una massa munita di rivoltella e altre armi qualsiasi impone ben maggiore rispetto. Insomma, viva lo sciopero generale, ma che sia sciopero armato.